Capitolo quarto. Quello che la Madre Nostra è per noi. Esaminiamo dunque quello che è per te la Divina Madre, ora che hai risoluto di vivere per Gesù sia nel mondo sia nel convento. L'unico scopo della vita è di sviluppare il germe dell'amor di Dio che ti è stato infuso, ossia di far crescere in te Gesù, di farlo arrivare all'età perfetta. L'amore di Dio, la grazia santificante, la vita di Gesù, la vita soprannaturale, tutto ha il medesimo significato. La Santissima Trinità ha voluto comunicare la sua natura divina, la sua vita infinitamente felice alle creature. Ha dato questa vita divina senza misura a Gesù, e Gesù ce la comunica a sua volta sotto forma di grazia santificante. Quanto più un'anima riceve la vita di Gesù in sé, tanto più è perfetta. Gesù Cristo nasce così nuovamente, o piuttosto continua a nascere perché la sua vita non è ancora compiuta. San Paolo dice che questa divina carità è stata infusa nei nostri cuori dallo Spirito Santo che ci è stato dato. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. Gesù Cristo, secondo la sua divinità, è la causa principale della grazia. La sua umanità santa è la causa strumentale prima, lo strumento per il quale questa grazia arriva a noi. Gesù Cristo ha inoltre istituito i sacramenti, i quali sono la causa strumentale secondaria della comunicazione della grazia. Ora, per una misteriosa disposizione della provvidenza, Gesù Cristo non comunica alcun soccorso soprannaturale a qualsiasi uomo senza il consenso, la mediazione della Santissima Vergine. Senza dubbio, Dio è la sorgente di ogni bene nell'ordine naturale e soprannaturale, ma Egli desidera fare il bene per mezzo di altre creature. Per questo motivo ha creato la Madre Terrena. La sorgente prima della bontà materna è Dio medesimo. Ma Egli ha riversato la propria tenerezza in un cuore creato e ne ha fatto come un serbatoio dove altri verranno ad attingere. Così si è comportato rispetto alla Madonna. Ha fatto del cuore di questa sublime creatura il serbatoio di tutte le grazie che saranno un giorno spartite tra gli uomini e l'ha incaricata di fare tal distribuzione. Senza dubbio tutto viene da Gesù Cristo, ma senza il consenso, il desiderio, la preghiera della Santissima Vergine, nessuna grazia passerà dal suo divin cuore nell'anima dei cristiani. Gesù non ha voluto nascere senza il suo consenso. Non nascerà di nuovo in nessun cuore senza il medesimo consenso. È e sarà sempre vero che, avendo ricevuto per suo mezzo una volta il principio universale della grazia, ne abbiamo ricevuto anche per la sua mediazione le diverse applicazioni che compongono i vari stati della vita cristiana. La sua carità materna, avendo tanto contribuito alla nostra salvezza nel mistero dell'incarnazione, vi contribuirà eternamente in tutte le altre operazioni che da essa derivano. Bossuet, terzo discorso per la festa dell'Immacolata Concezione. I disegni di Dio sono necessariamente perfetti, sono al tempo stesso universali e individuali, abbracciano il complesso e tutti i particolari, si estendono alle cause e a tutte le loro conseguenze, contengono i principi con tutte le loro applicazioni. Quando Dio determinò di far dipendere dalla volontà di un'umile vergine tutto il progetto dell'incarnazione e della redenzione degli uomini, volle far dipendere da questa medesima volontà gli effetti di questa medesima redenzione su ciascun uomo. E osserviamo qui un altro grande mistero. Se Dio ha richiesto per l'incarnazione e per la redenzione il libero consenso di sua madre, ha voluto pure che questa dipendenza non fosse una semplice formula, ma una realtà. Quando comunica ad una madre terrena il suo amore e la sua bontà, questa madre può far parte di tal tenerezza in una misura più o meno grande. Può anche chiudere il suo cuore e impedire all'amore, di cui è un focolare, di irraggiare sopra altri esseri. I suoi figli saranno così privi, per colpa della madre, del beneficio che Dio destinava loro. Se invece la madre intende il suo dovere e sviluppa sapientemente in sé i sentimenti di amore e di abnegazione con cui Dio l'ha arricchita, i suoi figli godranno un aumento di tenerezza. In tal modo Dio regge il mondo e distribuisce i suoi benefici per mezzo delle cause seconde, realmente e non in apparenza soltanto, e quelli che hanno l'onore di essere scelti da Dio per diffondere le sue bontà possono, con l'uso della loro libera volontà, far godere o privare altre creature dei soccorsi concessi loro da Dio. Essendo la Madonna costituita nostra madre, ossia mediatrice di tutte le grazie, Dio fa dipendere dalla sua libera volontà la comunicazione di tutti i soccorsi che ci destina. Non l'obbliga più di quello che obblighi la madre terrena ad adempiere l'ufficio di amore che le ha affidato. Egli ha dato senza dubbio a questa Vergine divina un cuore di madre capace di amare tutti i suoi figli, ma non vincola la sua azione. Le lascia la sua iniziativa, le dà la libertà di avere premure speciali o una vigilanza e una tenerezza particolari per alcuni suoi figli. E siccome il cuore della Divina Madre è un cuore umano, il cuore umano più perfetto con quello di Gesù ne conserva pure le qualità proprie, le commozioni, la compassione. È sensibile agli omaggi che gli offrono i suoi figli, si lascia piegare dalle preghiere e dalle lacrime, si commuove alla vista della sventura, non resiste ad una prova di affetto, è attratto dalla semplicità e dall'umiltà. E Dio lascia fare la Madonna, non la contraria nella sua opera e nei suoi affetti di madre. Sarà buono per coloro che essa ama e per i quali essa prega. Amerà specialmente i suoi figli più devoti. Sei dunque il frutto di un doppio amore. Dio ti ha amato, egli ha deposto tal amore nel cuore della Divina Madre e dall'unione dei loro due cuori hai ricevuto la vita della grazia. Ma come questa vita divina è cominciata in te per l'operazione dello Spirito Santo e la cooperazione volontaria della Madonna, così si conserva e si sviluppa per questo medesimo doppio principio. Noi siamo dunque portati nel seno della sua materna carità. Nella sua anima benedetta riceviamo lo Spirito Santo, la vita soprannaturale e la crescenza spirituale. La madre che dà la vita corporale è tanto strettamente unita al frutto che porta in sé che il suo figliuolo non vive se non per mezzo di lei. Così tu sei nascosto nel seno materno, nell'anima amante di Maria. Non hai di per sé né respiro soprannaturale, né alimento e neppure un semplice moto. Non puoi né desiderare, né volere, né pensare soprannaturalmente senza di lei. Come la madre trae dalla propria sostanza il latte che dà al suo bambino, così la madre divina attinge in sé nella propria sostanza soprannaturale, ossia nell'immensa carità di cui Gesù l'ha arricchita l'alimento che sosterrà in te la vita di Gesù. E quanto più le è dato comunicare Gesù alle anime, tanto più si rallegra, perché più è madre. Perciò la Madonna è doppiamente feconda. Feconda per la sua natura e feconda per la sua carità. Essa ha dato la vita corporale a Gesù per mezzo della sua natura umana sotto l'azione dello Spirito Santo. Ci ha dato la vita divina per mezzo della sua carità sotto l'operazione del medesimo Spirito Santo. Nel suo seno virginale concepisce Gesù. Nell'anima sua, piena di amore, concepisce noi. Ma prima di concepire Gesù nel suo corpo, l'aveva già concepito nell'anima sua, dice Sant'Agostino. E in quest'anima continua a concepire Gesù nei suoi fratelli e a fargli raggiungere la sua età perfetta. Così queste due fecondità si chiamano e si integrano. Quando Gesù Redentore, capo della Chiesa, abita nel suo seno, la dolce Vergine sente che noi vi siamo con Lui, perché i membri non sono senza la testa. Quando ci concepisce nell'anima sua mediante la carità, sa che Gesù vi è con noi, che è Lui, il suo caro figliolo, che ella continua a generare e a far crescere in noi. Non solo Maria ci comunica tutti i soccorsi, non solo attinge tali grazie nella propria sostanza soprannaturale, ma anche, come una tenera madre, adatta questo nutrimento ai bisogni dei suoi figli. Pensa con quale sollecitudine sceglie per te le grazie che ti sono necessarie, come prima le ha assimilate, trasformate nel suo cuore, per adattarle ai tuoi gusti e alle tue capacità. Scruta, se puoi, qual previdente tenerezza le è occorsa per non violentare il tuo libero arbitrio e far tuttavia scorrere in te il latte della grazia. Quale industriosa bontà nella madre terrena per nutrire un bambino malato che rifiuta il latte materno. Come abile nell'ingannare i capricci del suo neonato per non privarlo di un nutrimento necessario. Egualmente fa la nostra Madre Celeste. Spia le occasioni e approfitta delle circostanze per far cadere una goccia della sua grazia divina, un avvertimento, un rimorso, una commozione nell'anima del figlio suo, capriccioso o malato. E quando questi vuol cercare altrove un alimento ai suoi desideri disordinati, spande l'amarezza su tutto quello che non è Dio. Scava nel suo cuore un gran vuoto, vi mantiene la tristezza e il desiderio di una felicità più grande e più pura, finché, finalmente, stanco e assetato, torni al seno materno. Oh, com'è difficile l'educazione spirituale del fanciullo e quanta pazienza ha dovuto usare la nostra Madre Celeste. Spesso vogliamo formare noi stessi la nostra vita spirituale, scegliere la nostra via e camminarvi con le nostre sole forze. Temerari, ignoriamo i pericoli del sentiero, i precipizi che lo costeggiano e i nemici che ci spiano al passaggio. Gesù ci ha dato la madre sua per guidarci, le ha affidato quello che di più caro ha sulla terra, l'anima nostra, il suo progresso spirituale, la sua santità. Questa buona madre sa come possiamo renderci simili a Gesù, quali fiori di santità egli desidera di vedere sbocciare nel giardino dell'anima nostra. Lasciamo alla sua sollecitudine e alla sua abilità materna la cura di far vivere Gesù in noi.